mattina, risvegliatosi dopo sogni inquieti, Gregor Samsa si trovò tramutato in uno scarafaggio. Mazza. Tutto sommato c'ha la sua ironia. Porca miseria. Gregorio Samsa. Anche perché più o meno tutta la mattina ci troviamo tramutati in scarafaggio. Certo. Quindi non è una grande novità. Però l'ha detto. Prima non l'aveva mai detto nessuno. Ho l'impressione che ricercare la musica bella sia uno dei fari della ricerca, una specie di Graal, no? Si va a cercare. Ma forse. Sì, perché. Però c'è chi interessa il Graal e chi non interessa. Certo. Ma per noi che suoniamo e siamo sedicenti ricercatori, no? Giusto. Ricerchiamo che ecco. Cosa? Esplorazione. Io avevo portato questo librino. È interessante perché? L'argomento. Esplorazione. Sì, perché poi è una cosa soggettiva. Certo, perché però c'era forse anche e rientra poi anche cioè come si dice nel fashion victim, perché quelli che ascoltano tutto quello che passa il convento, che passa al convento, in realtà non sapranno mai cos'è insomma la musica bella. Se la sogniamo la notte. Il concetto di bello, appunto, rischia di allontanare dal centro, dal fuoco. Il centro non è star bene insieme. Io ieri sera ho ascoltato questa musica e ho detto brutta. Ho ascoltato l'inizio della nostra improvvisazione, per esempio, adesso lì elettronica, ho detto che bello. Cioè cos'è che... Ma è stato... Non è un... È stato proprio una cosa mia istintuale, no? Come sì, quando da una puzza tendo ad allontanarmi, a un buon profumo tendo ad avvicinarmi. Io so cos'è brutto per me. La paura che hanno gli altri. Cioè quando un altro ha paura, esatto. A me mi... Ti spaventa. Mi fa brutto, esatto. Insomma. Ti comunica l'ansia. Esatto. Sì, sì. Posso dire una barzelletta? C'è tutto no. Contemporaneamente. Sì, questa ci sta. Perché è un masochista e un sadico. Sì. Picchiami, picchiami. No! Non ti picchi. No! Picchiami, picchiami. No! Mezz'ora che mi ascolto questo la musica, la pittura, la ma per esempio se io adesso non avessi Benedetto Fanno nel sottofondo molto umili, sì. No, sarebbe più bello secondo te? No, io ti ho fatto subito la distinzione, sì, sì. Chiaro, è provocatorio. Nel senso che secondo perché, perché forse non si è capito la cosa. No, del fatto che proprio questa modalità di mettere i monotimbri, in questa modalità, non nelle tutte le altre, non che bisogna avere soltanto una persona di strumento. No, per me è brutto quella cosa che proprio mi fa star. Quella cosa che. Ma non è tu una parola. Sì, allora un concetto, dai. Sì, dai. Quella cosa che mi fa star male, ma vuol dire star male, vuol dire che mi porta fuori da me. Per cui io non ho più le coordinate per gestirmi. Non riesco più cioè proprio ho perdo la possibilità di qualsiasi cosa, no? Con me stesso. No, io sostengo un'altra cosa, ossia che c'è un'idea di bello oggettivo, per esempio il giudizio universale di Michelangelo è una cosa bella oggettivamente. Culturalmente. Non ci piove. Di stare bene insieme, no? Quella è la cosa importante. Io mi ricordo che quando siamo usciti dalle batterie eravamo tutti a mille. Quando siamo usciti dai pianoforti, allora c'eravamo io e altre due persone che ancora prima che finisse la registrazione eravamo già andati fuori perché proprio non ci sentivamo neanche perché c'era un bordello e non sentivamo proprio quello che facevamo. Luca Miti e altri che sono alzati e dicono, ma quando, ok, questa è carina, ma quando è che facciamo quella serie? E tutti se ne sono andati un po' così. Allora dico, lì non siamo stati bene. O almeno tu sei stato bene, sì. Però se la maggior parte non sta bene, prendi come atto. Per me comunque la PS, vi odio tutti. Maledetti bastardi. Che mi fa male è sempre la relazione. La relazione. Sentimentale. Paura infonderando. Cos'è che dicevi, Simone? No! L'ha singhiozzato, per quello che non hai sentito. Sì. I tentativi di relazioni sentimentali. Forse la cosa che sa un po' di stupro è quando ti senti che qualcuno ti dice che cosa deve essere bello per te. E quello forse io lo sento come un atteggiamento violento, no? Quando mi dicono che una donna per essere bella deve avere questo per quello, ragazzi, no? Quando si improvvisa, quando si lavora componendo insieme in maniera estemporanea, ci si sente spesso, no, violenta, perché si vorrebbe che l'altro lavorasse come si sta cioè che non ti calpesta, ti senti calpestato ogni tanto, perché sei lì, sei nudo, no? No? Tremendo, sì. Tremendo, è così, sì. Io... Anch'io. Io no. Puzzo. Marcolino, te sei un... Maledetto. Un neoplatonico. Sei un neoplatonico. Giamburrasca. Volevo arrivare a dire butti un'altra cosa. Il sasso perché ci sia la diga che crolla e ci siano rivoli di pressione incontrollabile che si riversano sui nostri cuori e denti. Ci sprizzano. È Laura Pausini. È la musica di merda. Vabbè, cioè, proprio, ti va bene comunque. Sì, ma quello per me è proprio la tendenza ad essere attratti dalle novità è stata chiamata neofilia, amore del nuovo, in contrapposizione con neofobia, timore del nuovo. Qualunque cosa non familiare e potenzialmente pericolosa va avvicinata con cautela. Forse sarebbe meglio evitarla? Ma se l'evitiamo, come potremo conoscere qualcosa al riguardo? L'impulso neofilico ci spinge avanti e mantiene desto il nostro interesse, fino a che ciò che era sconosciuto diventa conosciuto e la familiarità lo rende poco temibile. Mortuorio o mortorio? È vero, mi sa che è mortorio, vero? Mi confermi? Il mortuorio è il... Sì, c'è questo... È il luogo del mortuo. Del mortuo. Non quello mio, quello tuo. Sì, mia zia è mortua. Esatto. No, io... mia zia è mormia. Mortua. Tua zia è mortua, scusa. Grande, beh. Scusa. Non ti ho mai apprezzato tanto come questa battuta. Ognuno i suoi. Esatto. Ti ho sempre considerato un cazzone, ma in questa battuta... tanto ti voglio bene. Il brutto, cioè mi sembra necessario, insomma. Io faccio più fatica a dire cosa è brutto, però faccio prima a dire cosa è bello, però è lo stesso. Sì. Ma io trovo bello quello che mi stupisce, quello che non mi stupisce lo trovo brutto. Anche così, neanche nelle relazioni umane, spesso infatti... Catacombe. Non ti ha stupito? No, mi è venuto in mente quando sono andato alle catacombe che ci hanno rubato. La i morti sono usciti, i morti hanno dato l'autoradio. Quello che ha stupito, ma cazzo, le infatti a volte sono stupito anche delle cose brutte, perché le cose cioè anche, a volte ti trovi in situazioni molto paurose, però c'è anche del bello dentro le cose, quando hai fortemente paura che non capisci più un cazzo, no? E c'è anche dell'adrenalina che cioè capisci, non è, cioè a volte mi sembra un po' schematico, invece in realtà noi siamo attratti anche da qualcosa, almeno io sono attratto anche da qualcosa che non fa sempre bene, no? Cioè c'è del bello anche nel... È difficile adesso definirlo bello, però è quel senso anche quando sei in presenza di una persona fortemente malata, no? Che è su un certo tipo di china, c'è qualcosa di grandioso in questa forma, c'è tu hai davanti una persona che ha contatto con qualcosa di enorme, di gigantesco, di bellissimo, anche nell'estremo dolore, no? Nell'estremo... Non possiamo, cioè io ho un momento per te, no, certo. Bello, allora, io direi, quando mia madre ha proprio ti proporrei, insomma, di mettere il microfono sopra la macchina di... No? Di enormità che ero fuori di testa, no? Non avevo più nessun, non me ne fregava più niente, no? Se fosse scoppiato il mondo non me ne sarebbe fregato niente in quel momento, però c'era un qualcosa di, ed era un supremo stupore, no? Un supremo stupore davanti a un evento gigantesco, no? Mille volte più grande di tutti noi messi insieme, cioè di me perlomeno. Quindi è curioso perché il bello si annida, forse non si può più chiamare bello, qualcosa che va oltre, bello, no? Qualcosa che... Però nella musica c'è anche quell'aspetto lì, cioè non possiamo... Filù, filù! È centrale sta roba qua, no? Perché è proprio in quel luogo lì dove appunto, no, riuscire a avere la forza di fronte a quell'altro che sta male, di fronte a cosa, avere la di fronte alle cose che mi mettono dentro, che mi fa star male, allora avere la forza di stare fermi e aspettare, perché lì c'è roba, è proprio lì che c'è roba. accettare forse a volte che lo stupore ci paralizzi, no? Sì. Collettiva, nel senso succede qualcosa che non c'è qualcuno che lavorare dice, per stare in quella roba lì malgrado no? E stare bene insieme, gioire insieme, è destabilizzante, è talmente destabilizzante, certo, non c'è il paparino, non c'è la mammina che dice questo sì, questo no, questo lo puoi fare.